Yeah, yeah. Test the mic, già lo sai. Yeah. Funk press, baby. SL press, baby. Yeah. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder. Keep on going under. Oh! È il funky press che ti inonda, direct breaks, spara onda. E lo sai, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder. Keep on going under. Yeah, chi è? È il funky press che ti inonda, direct breaks, spara onda. Yeah. Antiburocrate, rap presidente dell'ente, per la musica potente, dei ritmi più nuovi allo stesso tempo, tradizione, come vuole la missione, non conosco nessuno se mi guardo in giro, sono un branco di farlocchi e qualche facchiro, non sanno usare il mic nei piatti o il resto, io suono lo style e non pesto troppo per nascondere discorsi vuoti, amo il funky pregio e non siamo in pochi, sto discorso che le radio e i giornali cambiano, le interviste è qualcosa di triste, quindi rap che scrivo sono il mio blog, il mio magazine, il mio reality show, il documentario quotidiano delle mie battaglie, fumo tutto il tuo crew come tu fumi paglie, nel tuo club vedo troppi fagiani e quaglie, ho parole high fashion per tutte le taglie. Yeah, it's like a jungle sometimes, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder, keep on going under. Oh, è il funky press che ti inonda, direct breaks, spara onda. E lo sai, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder, keep on going under. Yeah, chi è? È il funky press che ti inonda, direct breaks, spara onda. Yeah, noi attraversiamo regioni e invadiamo terre, in questo mondo di delitti, corruzione e guerre. Il mio crew è barbaro ma anche gentiluomo, in questo traffico intenso romba come il tuono, grossa manna con le chicche che seleziono, prima che si svalutasse dire bella uomo, bella lì vai così ma era in tempi diversi, ora tutti fanno finta di non essersi persi, tra i profeti e il business, scrivimi al MySpace, ti porto il mio repertorio più il DJ, c'è chi caccia il cash e chi vuole fare furbo, se ti chiamo dall'inizio man tolgo il disturbo. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder, keep on going under. Oh, è il funky press che ti inonda, direct breaks, spara onda. E lo sai, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder, keep on going under. Yeah, chi è? È il funky press che ti inonda, direct breaks, spara onda. E se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, vuoi, e se vuoi viaggiare molto, e se vuoi viaggiare molto, e se vuoi viaggiare molto, seguendo il ritmo, se vuoi viaggiare molto, e se vuoi viaggiare molto, seguendo il ritmo, vieni in zona che ti rappo quello che ho scritto, se vuoi viaggiare molto, seguendo il ritmo, se vuoi viaggiare molto, e se vuoi viaggiare molto, vieni in zona che ti rappo tutto quel che ho scritto. Oh, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder, keep on going under. Oh, è il funky press che ti inonda, direct breaks, spara onda. E lo sai, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder, keep on going under. Yeah, chi è? È il funky press che ti inonda, direct breaks, spara onda. Oh, è il funky press, baby. Se vuoi viaggiare molto, se vuoi viaggiare molto, vieni in zona che ti rappo tutto quello che ho scritto. È il messaggio. New. Funky press, baby.